Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Benvenuti. Benvenuti per una nuova puntata di Eclettica, l'ennesima puntata di Eclettica. Chissà quante sono le puntate di Eclettica andate in onda sulle frequenze di Rock FM. Dovrei mettermi a contarle. Sono veramente tante, da fine 94 ad oggi. Giulio Caperdoni in vostra compagnia dalle 19 alle 20 tutti i giorni della settimana. Giulio è radiorockfm.com, l'indirizzo a cui scrivere, myspace.com/eclettica, il nostro spazio su internet, e poi c'è anche il sito della radio, www.radiorockfm.com. Mancava poco alle 8 del mattino, allorché il consigliere titolare Yakov Petrovich Goliadkin si svegliò da un lungo sonno, fece uno sbadiglio, si stiracchiò e aprì finalmente del tutto gli occhi. Per 2 minuti, però, rimase a giacere immobile nel suo letto come un uomo non completamente sicuro se sia sveglio o se ancora dorma, e se tutto ciò che accade intorno a lui sia realtà o non piuttosto la continuazione di un fantastico sognare. Ma ben presto i sensi del signor Goliadkin ripresero ad accogliere, più chiare e più precise, le consuete, abituali impressioni. Questo era l'incipit di Il Sosia di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij. Bom, belli, belli, belli, belli, bom. On the microphone, I hear I come. To rock with the bass and drums, with the one and the all that come. Don't you know that the time has come to ring the alarm undone, undone. Remember the life before, every mother was a report of another brother lost at war, and the family he left home, a wife and a baby and a loan, a flag and a medal and a tomb, a general in every living room, and a television telling you to hate everybody but you. But it doesn't have to be that way. I remember back in the day, back in the day, when we used to say, okay, give a hand to somebody else, it's your ticket out of hell. Unring that bell. Unring that bell. Get out of hell, and heaven will surely know. Unring that bell. When are you gonna get it through your thick skull, Lorraine? You're my girl. Biff Tannen, I wouldn't be your girl even if you had $1 million. Hey! seats, arena seats, in a ringtone by the Saints. Don't know much about those weekend punks, but I've heard they're plenty faint. Street fights and open mics with a bar chord to meet the beat. Anthems written for the discontent, but the eyeliner is key. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The mixing of the back. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. They're mixing up the bad. Hoods up, poetry from the cul-de-sacs. Bats out, anarchy with a note attached. Blast beats, window seats in the photographs. Tattoo lyrics from the teddy boys are singing by. Names you can bet that hearts will bleed. Sort of clever and nostalgic ones, we'll sing them poems at breakneck speed. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. They're mixing up the bad. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. They're mixing up the bad. Hoods up, poetry from the cul-de-sacs. With a note attached. Blast beats, window seats in the photographs. Tattoo lyrics with a teddy boys are singing bang, ba da ba da. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. They're mixing up the bad. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. The punks are writing love songs. They're mixing up the bad. Eclettica quest'oggi si è aperta con la voce di Michael Franti a dare una mano ai Government Mule per un brano dal loro ultimo album Unthrow That Spear, il titolo del pezzo della formazione newyorkese. Poi le chitarre dei Tallycraft, The Punks Are Writing Love Songs, appena chiuse. Ed ora invece la volta di Emily Haynes è un ritorno per quanto riguarda Eclettica. Infatti nella scorsa stagione Dr. Blind era passata veramente tantissime volte e anzi quel brano era stato anche ascoltato da un conduttore radiofonico di un'altra radio, il quale, tanto di cappello per averlo fatto, ha dichiarato di averlo messo in playlist dopo averlo ascoltato su Eclettica. Emily Haynes and the Soft Skeleton, questo è il nome della sua formazione solista. Vi ricordo che lei è anche la cantante dei Metric, che ci ascoltiamo con il nuovo singolo uscito per la Grönland. Si tratta di Our Hell. Last one, wrong, where's my prize? Under the lights, can we call it in? Alla fine di novembre, durante il disgelo, il treno della linea ferroviaria Pietroburgo-Varsavia si andava avvicinando a tutta velocità verso le 9 del mattino a Pietroburgo. L'umidità e la nebbia erano tali che si era fatto giorno a fatica. Dai finestrini del vagone era difficile distinguere alcunché a 10 passi a destra e a sinistra. Fra i passeggeri c'era anche chi tornava dall'estero, ma erano affollati soprattutto gli scompartimenti di terza classe, pieni di piccoli uomini d'affari che non venivano da troppo lontano. Tutti, come logico, erano stanchi, gli occhi appesantiti per la nottata trascorsa, tutti infreddoliti, i visi pallidi, giallastri, color della nebbia. Questo era l'incipit de L'Idiota di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. That'll make you rich. You want to be rich, don't you? Oh, yeah, sure, right. That's rich. You're gonna make me rich? nice little Italian stand-up. You plastic cowards who limp my labor, I've tried. Box of stranger straight razors, loincloths and tool belts, can barely lift the thing. Is dead to my family, drunk on my junk mail. I am the only hole black enough to wolf your world. Erano questi Fog con Alleluia Daddy, prima ancora erano stati gli italiani Canadians con la trascinante Summer Teenage Girl, ed ora è il momento di una novità che esce per la Domino Records per quanto riguarda l'Europa, quindi per quanto riguarda noi, Bonnie Prince Billy con Ask Forgiveness. È un EP solo di cover, ci sono 8 cover delle più diverse provenienze, da Frank Sinatra a Merle Haggard, da Phil Oaks a Björk, ma anche ai Danzig. E infatti noi ci ascoltiamo proprio questa cover nelle mani, nelle corde di Bonnie Prince Billy. Si tratta di Am I Demon? Hordes of faces, empty eyes, I see nothing new. Seasoned schemes of slimy curves offer up their flue.